I paggi di Bloom. Assuolo, assuolo, re di tutti gli uccellini, nel dì di Santo Stefano l'han preso tra le ginestre. Un fabbro mormora. Dio sia lodato, è quello Bloom. Dimostra appena 31 anni. Un pavimentatore lastricatore. Eccolo, il famoso Bloom, il più grande riformatore del mondo. Giù il cappello! Tutti si scoprono. Le donne sussurrano intensamente. Una milionaria, riccamente. Non è proprio meraviglioso? Una nobildonna, nobilmente. Che cosa non ha visto quell'uomo? Una femminista, mascolinamente. È fatto! Un campanaro, un viso classico, ha una fronte da pensatore. Tempo blumoso, un diluvio di sole a nord-ovest. Il vescovo di Down e Connor. Qui vi presento il vostro autentico imperatore dei presidenti e re dei dirigenti, il serenissimo e potentissimo e illuminatissimo reggitore di questo regno. Dio salvi Leopoldo I. Tutti. Dio salvi Leopoldo I. Bloom, in una dalmatica e manto violaceo, al vescovo di Down e Connor, dignitosamente. Grazie, alquanto eminente messere. William, arcivescovo di Armagh, instola violacea e mitria. Farai quanto sta in te affinché la giustizia e la misericordia ispirino tutte le tue sentenze in Irlanda e territori dipendenti? Bloom, mettendosi la mano destra sui testicoli, giura che il creatore faccia altrettanto con me. Tutto questo prometto di fare. Michael, arcivescovo di Armagh, versa un'ampolla di brillantina sulla testa di Bloom. Gaudium magnum annuntio vobis, habemus carneficem, Leopoldo, Patrizio, Andrea, Davide, Giorgio, che tu sia unto. Bloom indossa un manto di tessuto d'oro e si infila un anello con un rubino. Ascende e rimane in piedi sulla pietra del destino. I pari si mettono in testa contemporaneamente le loro 28 corone. Campane festose suonano nella chiesa del Redentore, in San Patrizio, in San Giorgio e nella Gaia Malahide. I fuochi artificiali della vendita di beneficenza Mairus balzano nel cielo da tutte le parti con disegni simbolici fallo-pirotecnici. I pari rendono omaggio a uno, avvicinandosi e genuflettendosi. I pari, qui mi dichiaro a voi soggetto nella vita e nelle membra su questa terra. Bloom alza la mano destra, su cui riluce il diamante Koh-i-Noor. Il suo palafreno nitrisce. Silenzio istantaneo. Trasmettitori intercontinentali e interplanetari sono pronti per la ricezione del messaggio. Bloom. Miei sudditi, col presente nominiamo il nostro fedele destriero Copula Felix Gran Visire ereditario e annunciamo che abbiamo quest'oggi ripudiato la nostra ex sposa e abbiamo concesso la nostra mano regale alla principessa Selene, splendore della notte. L'ex sposa morganatica di Bloom è frettolosamente portata via nel furgone carcerario. La principessa Selene, in abito azzurro luna, una mezzaluna d'argento sul capo, scende da una portantina, sorretta da due giganti. Fragore di applausi. John Howard Parnell alza lo stendardo reale. Illustre Bloom, successore del mio famoso fratello. Bloom abbraccia John Howard Parnell. Ti ringraziamo di tutto cuore, John, per questo benvenuto veramente regale nella Verde Erin, la terra promessa dei nostri comuni antenati. La cittadinanza onoraria gli viene presentata sotto forma di diploma. Gli vengono consegnate le chiavi di Dublino, incrociate su un cuscino color cremisi. Fa vedere a tutti che porta calze verdi. Tom Kernan, lo meritate, vostro onore. Bloom, in questo giorno, 20 anni or sono, noi sopraffacemmo il nemico ereditario a Ladysmith. I nostri obici e le mitragliatrici montate su cammello stambureggiarono sulle sue linee con effetto impressionante. Mezza lega ancora avanti, caricano loro, tutto sciolto. Cediamo forse? No, li cacciamo davanti a noi a briglia sciolta. Ecco, carichiamo noi, spiegata sulla sinistra la nostra cavalleria leggera spazzò le alture di Plevna e lanciando il grido di guerra, Bona Fide e Sabaoth sciavolò gli artiglieri saracini fino all'ultimo uomo. La cappella dei tipografi del Freeman. Udite, udite! John Wise Nolan. È questo l'uomo che ha fatto scappare di prigione James Stevens, un ragazzo dell'ospizio. Bravo! Un vecchio cittadino. Siete l'orgoglio del vostro paese, signore. Ecco cosa siete. La vecchietta delle mele. Questo è l'uomo che ci vuole per l'Irlanda. Bloom. Miei amati sudditi. Una nuova era sta per spuntare. Io, Bloom, in verità vi dico che è oggi mai prossima. Oh sì, parola di un Bloom, voi entrerete tra non molto nell'aurea città da venire ancora, la nuova Blumusalemme della nuova Ibernia del futuro. 32 operai decorati di rosette da tutte le contee d'Irlanda sotto la guida di Dervan il costruttore erigono la nuova Blumusalemme. È un edificio colossale, col tetto di cristallo, della forma di un immenso rognone di maiale, contenente 40.000 stanze. Man mano che si estende si demoliscono parecchi edifici e monumenti, si trasferiscono temporaneamente gli uffici governativi nei depositi delle ferrovie, si radono al suolo numerose case. Gli abitanti sono alloggiati in botti e casse, tutte segnate in rosso con le lettere LB. Diversi indigenti precipitano da una scala a pioli. Parte delle mura di Dublino, affollate da fedeli spettatori, crolla. Gli spettatori, morendo, «Morituri te salutant!» muoiono. Un uomo con un Macintosh marrone salta su da una botola, punta un dito proteso verso Bloom. L'uomo dal Macintosh. Non credete una sola parola di quello che dice. Quell'uomo è Leopold Mintosh, il famigerato incendiario. Il suo vero nome è Higgins. Bloom, fucilatelo, cane di un cristiano. Basta con Mintosh. Un colpo di cannone. L'uomo del Macintosh sparisce. Bloom, col suo scettro, abbatte papaveri. Si segnala la morte istantanea di molti potenti nemici, allevatori, deputati al Parlamento, membri di comitati permanenti. La guardia del corpo di Bloom distribuisce le elemosine del Giovedì Santo, medaglie commemorative, pani e pesci, distintivi della società di temperanza, costosi sigari Henry Clay, ossi di manzo per il brodo gratis, preservativi di gomma in involucri sigillati legati con filo d'oro, caramelline, zucchero filato all'ananas, biglie doux a forma di tricorno, abiti confezionati, padellate di frittate con salsiccia, bottiglie di disinfettante Jaez, marche di quietanza, indulgenze di 40 giorni, monete spurie, salsicce di maiale ingrassato in fattoria, biglietti di favore, abbonamenti per tutta la rete tranviaria, tagliandi della lotteria reale ungherese autorizzata, buoni per pasti da un soldo, ristampe popolari dei 12 peggiori libri del mondo. Marianna e Mangiasego, politico. Come allevare il bambino, infantilitico. 50 pasti a 7 sesti, culinico. Gesù era un mito solare, storico. Liberatevi di quel dolore, medico. Compendio dell'universo per infanti, cosmico. Ridacchiamo tutti, ilarico. Vade mecum dell'agente di pubblicità, giornalico. Lettere d'amore della madre assistente, erotico. Il chi è nello spazio, astrico. Le canzoni che parlano al cuore, melodico. La maniera di arricchire del signor quattro soldi, parsimonico. Parapiglia generale. Donne si fanno avanti per toccare l'orlo del manto di Bloom. La nobildonna Gwendolyn Dubedat emerge dalla folla, salta sul cavallo e lo bacia su ambo le guance fra clamori entusiastici. Si prende una fotografia al lampo di magnesio. Gli porgono a braccia tese infanti e poppanti. Le donne: piccolo padre, piccolo padre! Gli infanti e i poppanti: batti le manine che Poldino a casa viene, dolci nelle tasche per Leo che li tiene. Bloom, chinandosi, fa gentilmente il pizzicorino sulla pancia a Bebè Borman. Bebè Borman fa il ruttino col latte cagliato che gli cola dalla bocca. Ah già già già! Bloom, stringendo la mano a un giovanotto cieco. Oh mio più che fratello! Mettendo il braccio attorno alle spalle d'una vecchia coppia. Cari vecchi amici! Gioca ai quattro cantoni con bambini e bambine cenciosi. Cucù, cucù! Pinge due gemelli in una carrozzina. Mamma mia, della mamma o della zia? Fa giochi di prestigio. Si tira fuori dalla bocca fazzoletti rossi, arancioni, gialli, verdi, azzurri, indaco e violetti. Rag Vive, 32 piedi al secondo. Consola una vedova. L'assenza fa ringiovanire il cuore. Danza la giga scozzese con contorcimenti grotteschi. Su con le gambe, diavoli che non siete altro. Bacia le piaghe di decubito di un vecchio grande invalido paralitico. Ferite gloriose. Fa lo sgambetto a un poliziotto grasso. S.U. su. Mormora qualcosa all'orecchio di una cameriera arrossente e ride affabilmente. Birichina, birichina. Mangia una rapa cruda offertagli da Maurice Butterly, colono. Buona, squisita. Rifiuta di accettare i tre scellini offertigli da Joseph Hines, giornalista. Ma no, caro collega. Dà il suo soprabito a un povero. La prego di accettare. Prende parte a una corsa ventre a terra di vecchi storpi, maschi e femmine. Forza, ragazzi, scontorcetevi, figliole! Il cittadino, soffocato dall'emozione, si spazza via una lacrima con la sciarpa verde smeraldo. Che il buon Dio lo benedica! I corni d'ariete suonano per imporre il silenzio. Si issa lo stendardo di Sion. Bloom. Si toglie il manto maestosamente, rivelando obesità, srotola un cartiglio e legge solennemente: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Agadah, Tefilim, Kosher, Yom Kippur, Hanukkah, Rosh Hashanah, Beni Brit, Bar Mitzvah, Matzot, Ashkenazim, Meshuggah, Talit. Una traduzione ufficiale viene letta da Jimmy Harry, vice segretario comunale. Jimmy Harry. La corte di coscienza è aperta. Sua maestà cattolicissima amministrerà ora la giustizia all'aria aperta. Consigli medici e legali gratuiti, soluzioni di rebus e altri problemi. Tutti sono cordialmente invitati. Dato nella nostra fedele città di Dublino nell'anno primo dell'era paradisiaca. Paddy Leonard. Che devo fare per le mie tasse e imposte? Bloom. Pagale, amico mio. Paddy Leonard. Grazie. Nosey Flynn. Posso accendere un'ipoteca sulla mia assicurazione contro gli incendi? Bloom. Inflessibilmente. Signore, piacciavi osservare che in virtù della legge dei torti siete condannato con proroga di 6 mesi sotto cauzione a pagare la somma di 5 sterline. J.J. O'Molloy. Un Daniel, ho detto. Ma che? Un Peter O'Brien. Nosey Flynn. Da dove le cavo 5 sterline? Pisser Burke. Per un disturbo alla vescica? Bloom. Acid nit idroclor dil 20 gocce. Tinct mix vom 4 gocce. Extra taraxel lig 30 gocce. AQ dis ter indie. Chris Cullinan. Qual è la parallassi dell'eclittica subsolare di Aldebaran? Bloom. Lieto di avere sue notizie, Chris. K11. Joe Hines. Perché non è in uniforme? Bloom. Quando il mio progenitore di santa memoria portava l'uniforme del despota austriaco nell'umida cella, dov'era la sua? Ben Dollard. E le viole del pensiero? Bloom. Abbelliscono, bellificano i giardini di periferia. Ben Dollard. E quando nascono gemelli? Bloom. Il padre, Pater Babbino, si gratta la testa. Larry O'Rourke. Una licenza di 8 giorni per il mio nuovo locale. Si ricorda di me, Sir Leo, quando stava al numero 7. Mandò subito una dozzina di bottiglie di birra per la padrona. Bloom, freddamente. Non so chi siate. Lady Bloom non accetta regali. Crofton. Questa è davvero una festa. Bloom, solennemente. Lei la chiama festa. Io la chiamo sacramento. Alexander Keyes. E quando avremo la nostra ditta delle chiavi?